Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: da un lato la legge di stabilità, poco fa il governo ha posto come atteso la fiducia, il premier Letta ha detto andrà tutto bene, ma Silvio Berlusconi nel corso della riunione dei gruppi di Forza Italia chiarisce: se non tengono conto delle nostre richieste ci collocheremo all'opposizione. La fiducia riguarderà le parti modificate in commissione bilancio e non entreranno nel maxi emendamento le misure per regolamentare l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto. Resta invece l'impegno del governo per indicizzare le pensioni e poi l'ipotesi di sconti IMU per 250 milioni sugli immobili strumentali delle società, con un innalzamento al 30% della deducibilità sull'IRES. Faccio anche notare, visto che è una campagna, chiamiamola così, è un appello in realtà, lanciato dal Sole 24 Ore, dal direttore Roberto Napoletano domenica, in un editoriale, che è arrivata anche, la trovate oggi in prima pagina su Sole 24 Ore, la risposta del premier Enrico Letta, che si è detto favorevole a un confronto che porti a vincolare sostanzialmente le risorse recuperate attraverso la spending review, quindi la riduzione della spesa pubblica da un lato, e la lotta all'evasione fiscale, ad essere per il 90% destinate a ridurre il cuneo fiscale, quindi le tasse in busta paga, le tasse sul lavoro. Appunto, il premier Letta in un'intervista oggi, colloquio con il Sole 24 Ore, ha detto mettiamoci subito al lavoro e siamo anche pronti a inserire nella legge di stabilità una norma che crei questo vincolo. Ancora, per quello che riguarda i temi di cui ci occuperemo, il Monte dei Paschi, che nel giorno del Consiglio di Amministrazione continua a perdere in borsa, che cosa è successo? Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di anticipare i tempi per l'aumento di capitale, già a inizio 2014, e un aumento di capitale che dovrebbe arrivare fino a 3 miliardi di euro. Inizialmente i soldi da raccogliere con l'aumento di capitale erano sostanzialmente, allora un attimo solo, vedo una dichiarazione di Romani di Forza Italia che dice: per Forza Italia non ci sono più le condizioni per collaborare con il governo, e questo dovrebbe essere in qualche modo la conferma che Forza Italia si collocherà all'opposizione. Però vedo solo un flash di agenzia, poi vedremo se ne arrivano anche degli altri. Dicevo invece, per quello che riguarda il titolo Monte dei Paschi, anticipare l'aumento di capitale da un lato e aumentare la somma da raccogliere a 3 miliardi fa temere, come già ieri, gli investitori, che le nuove azioni emesse con l'aumento di capitale, quando si fa un aumento di capitale si emettono nuove azioni, possono essere emesse con un forte sconto rispetto al valore dei titoli già in circolazione. C'è chi parla di un 40%. Ora è chiaro che se tu emetti dei titoli che valgono il 40% in meno, il mercato, se scommette su questo, ne prende atto, inizia a vendere e porta il titolo al valore che immagina essere quello dell'aumento di capitale. E infatti anche oggi il Monte dei Paschi perde il 6,65%. Negativa la Popolare di Milano, meno 2,5%, Tenaris meno 2, Luxottica meno 1,20, Fondiaria Sai meno 1,20%. Invece, per quello che riguarda l'andamento generale dell'indice, Milano guadagna lo 0,16%, in linea con Francoforte che fa più 0,1%, e invece peggio fa Londra, meno 0,66%, ancora Parigi meno 0,34%. Tra i titoli che vanno bene segnalo il Banco Popolare più 2,40%, Azimut più 2%, Saipem più 1,70, Atlantia più 1,5 come Enel, Ferragamo più 1,30 come Buzzi Unice, Intesa San Paolo più 1,1 come ST Micro Electronics. Euro su dollaro a quota 1,3557. L'altro tema di cui ci occuperemo riguarda l'incontro bilaterale Italia-Russia a Trieste. 21 accordi commerciali, tra cui Fincantieri per navi per esplorazione petrolifera, Inalca, Gruppo Cremonini, Ministero dell'Agricoltura russo, per il settore bovino nella regione russa, ma Rosneft, Rostec e Pirelli, attività congiunte per produrre pneumatici. In campo energetico Enel e Rosneft hanno siglato un memorandum d'intesa per la cooperazione internazionale per esplorare, produrre e trasportare idrocarburi fuori dal territorio russo. Eni e Rosneft hanno firmato i contratti per forniture reciproche di greggio tra le due compagnie, accordo per investimenti congiunti in attività di logistica commerciale negli idrocarburi. Prysmian ha firmato un accordo di cooperazione tecnologica per distribuire energia in Russia, Prysmian e l'ex Pirelli Cavi. E ancora c'è sul tavolo la questione delle rinegoziazioni dei prezzi delle forniture di gas, la clausola take or pay, per cui devi pagare anche se non ritiri il gas. E altro accordo, quello del corridoio verde doganale, quindi una convenzione firmata dalle dogane dei due paesi per avere procedure doganali semplificate. All'Italia non è sul tavolo perché Aeroflot ha detto di non essere interessata. E poi inaugurato l'anno incrociato del turismo tra Italia e Russia. Faccio notare che i russi che vengono a visitare questo paese sono 800.000 ogni anno. A questo proposito, visto che ci troviamo all'Italia, c'è stata oggi la notizia che Ryanair ha lanciato una nuova base. Dal 18 dicembre partirà la nuova base all'aeroporto di Roma Fiumicino e ha offerto ad Alitalia un accordo di collaborazione, in particolare per le tratte a lungo raggio. Vedremo se poi arriverà una risposta dall'Italia, perché dal 18 dicembre Ryanair opererà diversi voli giornalieri per le nuove basi della compagnia Catania, Palermo e Lamezia e collegamenti per Bruxelles e Barcellona. Sono 224 voli a settimana, 1.700.000 passeggeri l'anno. Intanto Alitalia ha annunciato il potenziamento dei suoi collegamenti da Malpensa e da Fiumicino per Tirana, dopo che è fallita ieri la compagnia albanese low cost Bel Air, che garantiva diversi collegamenti con l'Albania. Importante questo collegamento, non penso che però dal collegamento con Tirana possano arrivare così i miglioramenti attesi per l'Italia. Sempre su Alitalia, visto che sta per scadere il tempo massimo per l'aumento di capitale, le Poste italiane hanno chiarito che non metteranno un euro in più rispetto ai 75 milioni di euro annunciati, perché in questo momento non avrebbe senso, e che parteciperà all'aumento di capitale solo se l'aumento riservato ai soci arriverà ad almeno 225 milioni di euro. Questi temi, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Confermato nel frattempo, vedo i flash di agenzia, Forza Italia esce dalla maggioranza, una decisione molto molto nell'aria che si collega sia diciamo ad alcune critiche sulla legge di stabilità ma anche e soprattutto alla decadenza di Silvio Berlusconi. Sì, ho visto che anche Brunetta ha twittato, ma ci sono anche le agenzie, per cui insomma, Forza Italia si colloca all'opposizione. Vedremo adesso come andrà il voto di fiducia, ma non dovrebbero esserci problemi vista la scissione dentro l'ex Popolo della Libertà. Allora, notizie di carattere internazionale. Dagli Stati Uniti arriva un dato che segnala comunque la tonicità dell'economia americana. Perché? Perché i prezzi delle case nelle maggiori 20 città americane, misurate dall'indice più importante che c'è in America, Case-Shiller, sono saliti a settembre del 13%, è l'aumento in un mese più alto dal 2006. Ancora una notizia interessante che arriva dalla Gran Bretagna: il personale di Amazon nel Regno Unito sarebbe a rischio di problemi mentali e fisici per l'eccessivo carico di stress a cui i dipendenti sono sottoposti. E il reporter che è stato infiltrato dalla BBC ha lavorato, come ha detto, alle spedizioni in tunnel massacranti in cui doveva camminare per oltre 15 chilometri all'interno del gigantesco magazzino per trovare i libri e i vari oggetti da inviare al cliente. E in media un ordine deve essere gestito in 33 secondi. E problemi per Amazon anche in Germania, negli stabilimenti di Bad Hersfeld e Lipsia. Si parla infatti di sciopero in un periodo critico come quello che precede il Natale. I lavoratori incroceranno le braccia infatti se non saranno aumentati i salari. Nuova banconota da 10 euro nel 2014, ci sarà l'effigie della Dea Europa. Comunque la Banca Centrale Europea presenterà la nuova banconota il 13 gennaio 2014. L'obiettivo è facilitare l'introduzione della nuova banconota fra i produttori di attrezzature per il trattamento delle banconote. Oggi ho fatto un seminario. Comunque vi sarà una nuova banconota da 10 euro. L'importante non è la forma della banconota, ma è averle nel portafoglio, aggiungiamo noi. Vedo molti messaggi che riguardano la legge di stabilità. Adesso ci arriviamo, anche perché, attenzione, la fiducia arriverà in serata, per cui non possiamo darla per scontata, però novità ci sono, e anche sulla tassazione, perché è nata prima ancora di vedere la luce la TRISE, la tassa che avrebbe dovuto sostituire l'IMU e la TARES, e che verrà invece soppiantata dalla IUC, imposta unica comunale. IUC sembra quasi un'espressione, un nome normale, no? La IUC avrà un'aliquota massima del 10,6 per mille e mezzo miliardo di euro a disposizione per le detrazioni. Ne parliamo fra un attimo, perché vorrei invece raccontare, visto che Cottarelli oggi ha detto, il commissario allo Spending Review, serviranno bastone e carota per la funzione pubblica, immagino. Noi continuiamo a fornire idee a Cottarelli da prima che lui si insediasse, da anni, su dove tagliare qualcosa, e non so, una maiella, non si può avere una maiella, perché una maiella, un tango, quello che avete, perché qui c'è una storia bellissima, si fa per dire, se non fossero soldi nostri, che riguarda il Centro Internazionale di Addestramento Professionale Integrato di Palermo. Allora, delle volte i nomi già rivelano quello che sta per succedere. Il centro si chiama CHAPI, e chi conosce un po' i dialetti sa che CHAPI è già evocativo. Beh, un centro che vanta dei record assoluti. Me la date? Perfetto, perfetto, vabbè. Allora, il CHAPI dove, verrebbe da dire? Perché allora è costato 15 milioni e 200 mila euro. Per fare cosa? Per formare 18 apprendisti avviati al lavoro. Sapete quanto è costato ogni singolo apprendista? 850 mila euro. Facevi prima a darglieli, e anche senza lavoro. Pensate che il controllore mandato dall'Europa, dell'ufficio antifrode, per verificare come mai questo centro costasse così tanto, si domandò seriamente se nel centro venissero addestrati degli astronauti, perché 850.000 euro l'uno è veramente un record. Ma questo è uno dei tanti progetti fallimentari creati dal CHAPI solo per saccheggiare risorse pubbliche. Sempre ad opera del CHAPI, si ricordano i corsi di Merletto Macramè. Merletto Macramè, manco so che è. Di Body Dream Massage, quello qualche idea ce l'avrei, però non è periodo, dai. Corsi per l'uso della posta elettronica, corsi per l'uso della posta elettronica, o corsi di comunicazione e gestione dei conflitti interni, boh, non lo so. Il centro è arrivato persino a dotarsi di una sede a Buenos Aires di cui è ignoto l'utilizzo. C'è anche una sede, il CHAPI, a Buenos Aires, si chiamerà CHAPAS, non lo so. Del resto il business della formazione fa gola a molti, se si pensa che in 10 anni, solo in Sicilia, sono arrivati 4 miliardi di euro pubblici per questa finalità. In realtà, più che formare giovani disoccupati, servono a garantire uno stipendio ai vecchi o giovani consulenti, perché non si spiega altrimenti come possa costare 850.000 euro formare una persona per poi un apprendista. Quanti sono gli enti accreditati alla formazione in Sicilia? Beh, tantissimi, 1600. E tra loro c'è di tutto, per carità, c'è anche chi opera seriamente e chi accede ai finanziamenti proponendo corsi a cui non partecipa nessuno e i docenti vengono comunque pagati. Io immagino il docente che parla all'aula vuota, deve essere bellissimo. Allora, ci sono i corsi come addetto per le torrette di avvistamento incendi nel parco dell'isola Egadi. Beh, bello, dice, giustamente tu devi formarlo chi deve avvistare un incendio nel parco dell'isola Egadi. Sì, peccato che non esista ancora il parco, però già c'è chi avvista per il parco. E poi c'è il corso per esperto di regole del vivere civile. Questo io vorrei mandare anche qualche conoscente. Oppure quello per diventare artista polivalente. Visto mai che l'artista è monovalente, è l'artista polivalente. Allora, quest'anno, a seguito di un intervento della Corte dei Conti, sono finiti in manette 17 tra politici e manager della formazione. Poi dite, vabbè, questi 4 miliardi che abbiamo speso per i corsi di formazione saranno serviti ad abbassare il numero di NEET, quindi Not Employed or Educated People, giovani siciliani? Beh, la disoccupazione giovanile in Sicilia supera il 40%. Comunque complimenti al Ciapi, Ciapi qui, Ciapi lì e poi anche noi Ciapem, perché tra l'altro, voglio dire, ripeto, il corso di merletto macramè, qualcuno mi può scrivere via sms al 349-238-6666 che cos'è il corso di merletto macramè? E body dream massage, body dream massage, una prospettiva futura. Andiamo al comune di Roma che sta affondando, l'abbiamo raccontato anche ieri, sotto un deficit di 870 milioni di euro. Restano 4 giorni per approvare il bilancio e giustamente con un atto di grande responsabilità sono piovuti sul bilancio 130.000 emendamenti, per lo più a firma delle forze di opposizione guidate da Alfio Marchini. In aula scoppiano risse, lo scandalo dilaga, situazione fuori controllo, eppure fermi tutti. Se gioca la Roma non c'è emergenza che tenga e un accordo si trova subito, perché ci sono 130.000 emendamenti, ci sono 870 milioni di euro di buco, avete 4 giorni di tempo per approvare il bilancio, ma ieri alle 20 seduta del comune interrotta, tutti a vedere Roma Cagliari, poche soddisfazioni perché si è chiuso con un pareggio e la Roma non è più prima in classifica. Ma voglio dire, quando il paese chiama, quando la classe politica è responsabile, gli accordi si trovano. Vedi che alle 20 tutto si è interrotto per andare a vedere la partita. Invece stanno volando non gli stracci ma i pugni in Piemonte. Il Piemonte è travolto da 43 notifiche di illegittimo utilizzo di fondi pubblici emanate dalla procura di Torino senza archiviazione. Le comunicazioni riguardano 42 esponenti della regione Piemonte, cioè praticamente tutti gli esponenti della Lega, molti esponenti del PDL, Mercedes Bresso del PD e il presidente della giunta Roberto Cota. L'abbiamo già raccontata, tra tutti i consiglieri la cifra dei rimborsi contestati arriva a 1 milione di euro, di tutto c'è. Al presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo PDL vengono contestati 9.000 euro di alberghi, 1.800 euro di biglietti di auguri natalizi al Popolo della Libertà. Al presidente, al governatore Cota vengono contestate spese per 25.000 euro in ristoranti, fast food, fiori, penne, cravatte, giocattoli per bimbi, che immagino essere i futuri elettori, per cui dalla culla alla bara, si diceva una volta nel vecchio welfare system britannico. Vabbè, insomma, ci sono 43 notifiche di 42 indagati, per la precisione. Oggi si sono menati veramente, praticamente stava parlando l'ex presidente Mercedes Bresso, Franco Botta e Aldo Reschigna, capogruppo rispettivamente di Fratelli d'Italia e del PD, sono venuti alle mani, sono caduti per terra, volano insulti, accuse reciproche. È intervenuto il presidente del consiglio Valerio Cattaneo. Praticamente la tensione è salita durante il dibattito seguito alle parole del governatore Roberto Cota sull'avviso di chiusura di indagini sull'illegittimo utilizzo di fondi pubblici. Molto nervosismo e pochi ristoranti. Potevano metterci anche qualche camomilla nella nota spesa a sto punto, va? Detto ciò, vedi che si può risparmiare. Passiamo invece a questo scioglilingua. Lo fa molto bene anche Giovanni Minoli la mattina. La Trise ha avuto un trise destino, è morta prima di nascere, non ci sarà più la tassa che avrebbe messo assieme IMU e TARES, ma invece ci sarà la IUC, che è anche un po' l'espressione che avranno i contribuenti quando se la vedranno arrivare. IUC, con l'aggiunta di qualcos'altro, imposta unica comunale, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Molti mi stanno aiutando nel capire cos'è merletto macramè, un merletto di carattere ispanico. Sono contentissimo, ma perché bisogna fare un corso di formazione per il merletto macramè? No, comunque confermo che ci sono i corsi per avvistare gli incendi nel parco delle Egadi, è che manca il parco delle Egadi. È tutto qua. Grazie, uncinetto merletto, va bene, grazie. Ho capito cos'è macramè. Allora, invece vorrei capire che cos'è la IUC. IUC. Allora, vediamo di capire qualcosa. Nel 2011 c'era l'ICI. Oh, povera ICI. Quanto qua ICI era anche facile. ICI. E il gettito nel 2011 fu di 9,2 miliardi. Nel 2011 arrivò l'IMU. E il gettito fu di 23 miliardi. E già, insomma, qua capiamo che il doppio, più del doppio rispetto all'ICI. Nel 2013 l'IMU l'hanno mezza levata e getterà 20 miliardi. Quanto genererà nel 2014 la IMU TASI, TASI IMU direi io, di origine veneta, ma soprattutto che adesso si chiamerà IUC, dovrebbe buttare 24 miliardi. Che poi tu la chiami IUC, che la chiami Maria o che la chiami Giorgio, cambia poco. Quello che capisco io, ma chiedo conferma a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Oh, tu arrivi sempre con belle notizie. Ormai sai che c'è la gente che fa gesti scaramantici quando tu intervieni in programma. Comunque, e mi raccomando, guidare con due mani sul volante. La IMU TASI o IUC, o prima ancora, come cavolo si chiamava, ho perso il conto, la Trise, deve buttare 24 miliardi minimo. Allora, io non ci capisco molto, ma scusami, sono 4 miliardi in più rispetto all'IMU e sono 12 miliardi in più rispetto all'ICI del 2011, e meno male che avevano elevato le tasse sulla casa. Sì, beh, a gonfiare il conto rispetto all'ICI ci sono i moltiplicatori introdotti in via provvisoria dal governo Monti a fine 2011 nel pieno della crisi finanziaria, che hanno gonfiato il valore catastale, quindi il valore imponibile delle case, dei capannoni, di tutti gli immobili, e che come tutte le cose introdotte in via provvisoria in Italia poi diventano definitive fino a che qualcuno probabilmente non li ritoccherà ancora. La IUC, semplicemente ma non troppo, è una imposta unica, che però unica non è perché ha dentro l'IMU, che rimane su tutti gli immobili con l'eccezione della prima casa non di lusso, cioè non è ancora chiusa la partita sull'IMU della prima casa del 2013, ma per il 2014 invece dovremmo essere abbastanza tranquilli. Poi tiene dentro la TARI, che è la nuova imposta, il nuovo tributo sui rifiuti, che è la TARES, che prima si chiamava TARSU e che si è chiamata in mille altri modi, e poi ha al suo interno la TASI, cioè il tributo sui servizi indivisibili che pagheranno tutti, comprese le abitazioni principali e compresi anche in quota parte gli inquilini. Quindi sostanzialmente l'IMU, che è stata che è in corso di superamento, per usare il termine del governo Letta, nel 2013 viene rispalmata nel 2014 non più solo sull'abitazione principale ma su tutte le case. 24 miliardi dicevamo minimo, In realtà poi i comuni potranno alzare l'aliquota secondo una complessa somma che tralascio. In questo caso, che però insomma può far arrivare per l'abitazione principale la TASI al 2,5 per mille, anche senza detrazioni, nel 2014, poi nel 2015 salta anche il 2,5 per mille e può salire fino al 6 per mille. Siccome l'IMU sugli altri immobili, cioè sui seconde case, capannoni eccetera, è già al massimo, ovviamente tutto lo sforzo fiscale rischia di concentrarsi sull'abitazione principale. Siccome le detrazioni non sono obbligatorie come erano per l'IMU, ma sono molto molto facoltative, limitate, poi andrà calcolato, andranno modulate sulla base di vari indicatori, tra cui il valore ISEE, è probabile che una quota importante di contribuenti, di proprietari di abitazione principale si ritrovino con la IUC a pagare di più di quanto pagavano con l'IMU dell'abitazione principale nel 2012, e lasciamo perdere il confronto con il 2013, che ovviamente dove ovviamente si paga di meno o si dovrebbe pagare di meno, perché l'IMU sull'abitazione principale non c'è. Allora, mi sembra molto chiaro quello che hai detto. Spero che qualcuno abbia avvisato Brunetta, che continua come l'ultimo dei giapponesi a dire che le tasse sulla casa sono diminuite quest'anno. Io questa cosa non la vedo. Non vi dico cosa stanno scrivendo gli ascoltatori sullo IUC. Molti fanno notare che era l'espressione di Pippo. È vero, IUC, è vero, non ci avevo pensato. Però con la K. Hai ragione, ma questa invece è con la C. Ma poi un altro che ha detto... Mamma mia, non siamo allegri, è la risata del rigor mortis. Allora, Yuk Yun ce la faccio più, scrive Nino da Lucca, e va bene anche questa. In realtà il dato molto serio è che la Yuk getterà il più del doppio rispetto, getterà nel senso di porterà nelle casse più del doppio dell'ICI. E soprattutto che io vorrei capire quanti altri nomi cambierà il governo da qua al 16 dicembre, perché il 16 dicembre ci sono le scadenze per i pagamenti, ma manco sappiamo cosa dobbiamo pagare, quanto sì, ma nemmeno perché, che è il massimo di tu paga i TASI, questa potrebbe essere l'unica soluzione. Infine ho scoperto cos'è il merletto macramè, tantissime spiegazioni mi avete mandato, la migliore mi sembra quella, è un tipo di pizzo, e su questo, visto che parlavamo diciamo la Sicilia, ci siamo. Eh sì, veramente una giungla, devo dire, adesso basta col concorso, perché mi ha scritto un ascoltatore Limur Tasi loro. Io veramente non so più come prendere. Pensavamo di aver visto di tutto, navi in fiamme al largo d'Orione, invece pure la Trise che diventa Yuk. Allora, una precisazione però, giovedì ci sarà il Consiglio dei Ministri che decide sulla cancellazione della seconda rata IMU. Però poi il 16 dicembre si paga la seconda casa, IMU e tutto il resto. Questo per essere precisi. Detto ciò, la legge di stabilità, il vice premier Franceschini, poniamo la fiducia per far chiarezza. L'emendamento 1900 è stato depositato. Su questo emendamento, a nome del governo, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, appunto dell'emendamento 1900, che tiene conto e recepisce le modifiche approvate dalla Commissione nel corso del lavoro referente, poi non concluso, nonché degli emendamenti appunto presentati dal governo e dai relatori. Penso anche che in queste ore la questione di fiducia sull'atto più importante che il governo fa, cioè la legge di stabilità, sia anche l'occasione per un trasparente, chiaro, spero sereno, confronto tra le forze politiche e anche di verifica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il governo e il Parlamento. Sì, queste dichiarazioni di Franceschini poi di fatto superate dalla conferma che Forza Italia esce dal governo e non dà più l'appoggio al governo Letta. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a voi. E complimenti, perché da poco nominato vice direttore del Sole 24 Ore. Detto ciò, già in difficoltà su questo, no, dimmi, io oggi mi scrivono gli ascoltatori, tanta allegria per non piangere. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che abbiamo Forza Italia che esce dal governo, non sappiamo ancora il nome che prenderà la tassa sulla casa, non ho capito bene come riusciremo a ridurre il cuneo della pressione fiscale, di che cosa stiamo parlando? Allora, sono uscite varie indiscrezioni oggi sui giornali, a partire da Sole 24 Ore, sui contenuti principali della legge di stabilità. Elencaceli tu, perché dovrebbero a questo punto essere quasi tutti confermati. Sì, dovrebbero essere tutti confermati. Naturalmente il maxi emendamento 1900, l'abbiamo sentito dal ministro Franceschini, è stato depositato, diciamo, da qualche decina di minuti, quindi salvo ulteriori verifiche, però insomma mi sembra di poter dire che le cose principali contenuti nella legge di stabilità, sulle quali, dico, domani noi sul Sole 24 Ore faremo un amplissimo speciale, insomma ci occuperemo di tutte le cose di cui adesso dirò, ovviamente la casa, abbiamo sentito Gianni Trovati che ha spiegato come funzionerà il nuovo tributo IUC, che in realtà include questi tre tributi, cioè la vecchia IMU, la TARI e la TASI. C'è un intervento sul cuneo fiscale fronte lavoratori dipendenti, che significa che per i redditi fino a 30-35 mila euro all'anno ci sarà un risparmio fiscale, diciamo, valutabile tra i 150 e i 250 euro all'anno, quindi insomma parliamo di cifre leggermente più alte a quelle che si erano ipotizzate a ottobre, quando è stata presentata la legge di stabilità, ma comunque insomma parliamo di poche decine di euro al mese. Sì. Viene confermata la proroga a tutto il 2014 al 2015 per le agevolazioni sui lavori in casa e sugli interventi di risparmio energetico. Vengono confermate diciamo alcune misure, direi in senso migliorativo, sulle pensioni, laddove è prevista una quota più alta per l'indicizzazione, bravissimo. Però okay, sembra di capire che quel contributo sulle pensioni più elevate, che doveva essere, se ricordo bene, nella versione d'ingresso 150.000 euro, sarà abbassato a 90.000 euro, quindi diciamo una penalizzazione sulle pensioni. Insomma, queste direi sono le cose principali, quelle di impatto più generale. E domani appunto su Sole 24 Ore tutte le varie iniziative e interventi, dettaglio per dettaglio. Faccio notare, prima, visto che ne parliamo, che comunque è arrivata oggi, sempre su Sole 24 Ore, lo dicevo anche in apertura del programma, un'apertura importante del Premier Letta, che ha detto: siamo disponibili a incontrare le parti sociali dopo l'appello lanciato dal direttore del Sole 24 Ore, ossia utilizzate il 90% di quello che risparmiate con la spending review e di quello che raccogliete con l'evasione per abbassare le tasse in busta paga di chi le tasse le paga tutte, perché praticamente le vengono prese alla fonte. Allora, su questo, a mio avviso, anche da un punto di vista dell'immagine, avrebbe anche più senso e sarebbe anche più popolare, da un lato, la lotta all'evasione, se poi sai che vanno in busta paga nel 90% dei casi, e dall'altro anche la spending review, perché tu inizi a contrapporre sprechi a pubblica amministrazione con vantaggi per le famiglie di lavoratori dipendenti. Io ringrazio Salvatore Padula, su questo appunto poi vedremo se vi saranno novità nel corso anche della diretta. Vedo che c'è chi propone IUC prime notis, va bene, ormai vi state sbizzarrendo. Adesso arriviamo invece, qualcuno mi chiede sulle accise. Io sulle accise sì, sulle accise pende sempre la famosa clausola di salvaguardia. Basta, cioè, ecco, esatto, quindi ancora non si sa, è atteso un provvedimento nei prossimi giorni del Ministero dell'Economia che potrebbe aumentare le accise, però ancora non c'è certezza. Sì, diciamo c'è una alta probabilità, ecco, mettiamo così, ci mettiamo la coscienza a posto. Grazie Salvatore Padula. Adesso il traffico, poi la borsa, la vicina Monte dei Paschi e invece l'incontro anche bilaterale Italia-Russia, che si è concluso praticamente con la conferenza stampa in questi minuti tra il premier Enrico Letta e il premier russo Vladimir Putin. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. 17:51 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, c'è chi mi dice, Fabio si era dimenticato di chiedere le mie dimissioni. Sono contento perché mi preoccupavo anch'io se non la sentivo Fabio. E invece, no, ogni giorno chiede che mi dimetta. No, invece c'è un altro ascoltatore che dice basta con questo populismo da strapazzi, in un altro paese l'avrebbero già messa in galera. E io che pensavo che in galera dovessero finire certi autori di sprechi che raccontiamo ogni giorno, ma ognuno può immaginarsi il paese che vuole. Se andate sulla pagina di Focus Economia su Facebook trovate una foto bellissima, lo dico perché parliamo spesso di pubblico impiego, appesa al Comune di Roma, che dice, ve la leggo testualmente: il pubblico si riceve nei giorni di, è tutto stampato, non è un biglietto, il pubblico si riceve nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, che già non è un orario, diciamo, da staccano, è martedì e venerdì dalle 10 alle 12, previo appuntamento telefonico. L'altri giorni, scritto così, dobbiamo lavorare, mentre evidentemente martedì e venerdì non lavorano. Si prega di non essere insistenti, altrimenti ci vedremo costretti, anche se contrario alla nostra educazione, a prendervi a parolacce ed insulti. E questo, no, è tutto vero, è tutto vero. Vabbè, vabbè. Allora, Monte dei Paschi di Siena e poi il resto della borsa. Monte dei Paschi oggi peggior titolo come ieri, meno 5,93%. Su cosa scommette il mercato nel giorno del Consiglio di Amministrazione che ha deciso di aumentare i tempi per, di anticipare i tempi per l'aumento di capitale già inizio 2014 e che poi arriverà fino a 3 miliardi di euro, non più 2,5. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, scommette su che cosa? Su un prezzo più basso dell'azione che verrà emessa per l'aumento di capitale, prego. Sì, trattandosi di un aumento di capitale di grandi dimensioni, fino a 3 miliardi, probabilmente saranno 3 miliardi, che è più del valore di capitalizzazione attuale del Monte, quindi questo dà l'idea di quanto sia ampia la portata dell'operazione. Per riuscire a collocare un aumento così ampio si ragiona di uno sconto molto elevato, gli analisti ragionano intorno al 40%. Cosa sta capitando? La borsa si sta allineando su quei valori, per cui oggi il titolo ha chiuso intorno ai 18 centesimi, si ragiona di un aumento intorno ai 12-13 centesimi, progressivamente il mercato si sta posizionando su quei livelli. Ecco, spieghiamo perché Viola e Profumo sono arrivati da un lato a anticipare l'aumento di capitale, che serve, non è una scelta così, è una scelta obbligata, lo dico per i livelli patrimoniali a cui ti obbliga la Banca d'Italia, insomma non puoi non fare l'aumento di capitale. Perché anticiparlo e perché aumentarne la portata? Prima un flash, poi magari continuiamo dopo il GR. Dunque, anticiparlo perché non dimentichiamo che questo aumento di capitale è particolare perché è stato richiesto dall'Unione Europea, che certo, domani probabilmente autorizzerà di fatto l'operazione. Prego. E dell'aumento di capitale fa parte il piano di ristrutturazione, compresi i Monti Bond, quindi insomma stiamo parlando di un pezzo di un'operazione molto ampia. Ha senso anticiparlo perché? Perché l'Unione Europea, la Commissione ha detto potete farlo entro la fine del 2014. Più ci si posiziona verso la fine del periodo, il mercato lo sa, evidentemente si rischia di spuntare un prezzo inferiore, quindi è tutto interesse della banca anticipare i tempi, beneficiando peraltro del clima sui mercati. Ecco, ma dimmi una cosa, visto che ho 30 secondi scarsi, ma questo 40% in meno rispetto al valore di qualche giorno fa, da dove nasce? Il 40% dell'oro in meno nasce dal fatto che per collocare una cifra così alta chi è disposto a comprare vuole uno sconto molto elevato. Ah, ma quindi è un'ipotesi? È un'ipotesi, un'ipotesi di analisti. Una scommessa? Assolutamente. Grazie Marco Ferrando, il GR, poi parliamo del resto della borsa e dell'incontro Putin-Letta. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:08, ritorno a Focus Economia, ce l'avete suggerita voi questa nuova base, salvami, dopo quello che abbiamo raccontato oggi sulle tasse, su come cambia, come è già morta, prima ancora di nascere, la Trise e riparte la IUC, mentre il governo perde un pezzo della sua maggioranza, Forza Italia, l'appello degli italiani è appunto salvateci, salvateci. Chiuso il tema Monte dei Paschi, anche se devo dare qualche aggiornamento, perché in borsa è stato scambiato il 7% del capitale, il titolo alla fine ha perso il 6%, ora concentriamoci anche sul resto della borsa. Tutte piatte le borse europee oggi, Milano ha fatto poca eccezione, va detto, perché meno 0,05 non è cosa. Parigi meno 0,57, tra le peggiori con Londra meno 0,80%, Francoforte invariata come Milano meno 0,11%. Tra i titoli, oltre al Monte dei Paschi che perde il 5,90, la Popolare di Milano perde il 2,60, Tenaris il 2,5% e Telecom Italia l'1,60%, Fondiaria l'1%, come Pirelli e Fiat, Eni meno 0,90%. Banco Popolare più 2% come Azimut e Ferragamo, l'1,5% lo perde Buzzi Unicem, l'1,20% Atlantia e Saipem. E poi Intesa più 1, Toz più 1, Enel più 1, ST Microelectronics più 0,90%, GTEC più 0,80%. Euro a quota 1,3556. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Vuoi commentarli con la base sotto o senza? Come volete voi, un allora, po' un po'. Allora un po' non si può, l'unica cosa non si può. Teniamo la base sotto, allora. Popolare di Milano, no, perché oggi non ce la faccio più con quello che vedo a fare la politica, con quello che abbiamo raccontato sulla regione Sicilia. Ogni limite ha una pazienza, come diceva Totò. Allora, Banco Popolare si distingue dalle altre banche, più 2% a 1,30 euro, a fronte opposto invece la Pop Milano. Livia. Sì, allora, il Banco Popolare ha mercati appena chiusi, ha annunciato il riassetto del gruppo, che comprende l'incorporazione di Banca Italise del Creberg, che ricordiamo è quotata e ha guadagnato il 2% circa. Per quanto riguarda invece la Popolare di Milano, ricordiamo che oggi il Monte dei Paschi ha approvato un aumento di capitale più consistente rispetto a quello stimato, e i timori del mercato riguardano che anche la Banca Popolare di Milano possa dover presto ricorrere a un duramento di capitale superiore ai 500 milioni di euro già deliberati. Inoltre ricordiamo che vi sono sempre le attese legate all'elezione del Consiglio di sorveglianza nell'Assemblea del prossimo 21 dicembre. E questo per quello che riguarda da un lato Pop Milano, dall'altro il Banco Popolare. Ancora su Eni, al di là degli accordi di cui parleremo adesso con Putin, il titolo perde l'1%, qui c'è una prospettiva peggiorata da parte di Fitch, no? Sì, diciamo che il settore è andato relativamente male, nel senso che anche Tenaris ha perso il 2,5%. Sì, ieri sera mercati chiusi, l'agenzia di rating Fitch ha peggiorato le prospettive sul rating, portandole da stabili a negative in conseguenza delle difficoltà incontrate nella produzione in Libia ed in Kazakistan, difficoltà che potrebbero pesare sui risultati finanziari del 2013. In effetti il titolo oggi è comunque stato piuttosto debole, a parte il meno 1% perso sul finale. Ancora, visto che parliamo degli accordi Italia-Russia, Enel più 1%, lo citavo prima, Snam Rete Gas più 0,40%. Ci sono dei titoli che, senza perdere tantissimo, però hanno mostrato oggi una certa debolezza. Telecom Italia meno 1,60%, e anche Finmeccanica abbiamo visto faticare oggi, in realtà poi ha chiuso in parità. Sì, allora Telecom Italia possiamo dire che sta venendo meno l'appeal speculativo sul titolo in vista dell'Assemblea del 20 dicembre, che deve votare la revoca del Consiglio di amministrazione. I fondi esteri sembra infatti che non prenderanno posizione, quindi affinché passi questa mozione di revoca, e inoltre oggi sul fronte della politica il viceministro dell'economia Fassina ha spiegato che la tanto attesa riforma dell'OPA sarà oggetto di un successivo provvedimento. Per quanto riguarda Finmeccanica, appunto, ha chiuso poi sulla parità, ma ha mostrato un andamento debole per tutta la seduta. Da una parte la società ha collocato sul mercato un bond a 7 anni da 700 milioni di euro, dall'altra, soprattutto in mattinata, il titolo ha scontato la notizia negativa secondo cui il governo in indiano avrebbe respinto la richiesta di arbitrato dopo la cancellazione della commessa per la fornitura di 12 elicotteri. Quindi diciamo che il titolo appunto ne aveva risentito di più ad inizio seduta, per poi invece chiudere leggermente in positivo. Chiudiamo con Geox invece, poi darò anche i migliori e peggiori in assoluto, ma Geox è il secondo miglior titolo oggi dopo Cobra Automotive, più 8%. Sì, allora Geox continua, diciamo così, a beneficiare dell'apprezzamento degli analisti per il nuovo piano industriale al 2016 comunicato a metà novembre. Sulla base del nuovo business plan, secondo gli esperti, ci sono infatti ampi spazi di recupero anche per il titolo. Ricordiamo che il piano industriale 2016 prevede un incremento delle vendite nette del 9% annuo fino a quasi 990 milioni di euro. E allora, visto che eravamo già sui migliori e peggiori, oltre a Geox, Invest più 7,27%, Novare più 5,60%, Alcatel Lucent Technologies più 5,21%, Seat Pagine Gialle più 4,5%, Credem più 4,20%. Fronte opposto invece la Roma Calcio, anzi Monte dei Paschi, abbiamo detto Soft Strategy meno 5%, SNAI meno 4,70% e poi appunto la Roma Calcio meno 7%. Nel ringraziare Livia Zancanelli di Radio Corriere Sole 24 Ore, alcuni pensano che stessi scherzando prima. No, veramente il cartello appeso agli uffici comunali romani con il simbolo di Roma Capitale è esattamente quello, e fa il paio con la notizia che leggevamo oggi sul Consiglio Comunale di Roma. Il pubblico si riceve nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Ah, roba proprio morire di lavoro. Previo appuntamento telefonico. L'altri giorni, tutto stampato e plastificato, ecco il simbolo di Roma Capitale. L'altri giorni dobbiamo lavorare, ecco appunto. E si prega di non essere insistenti, altrimenti ci vedremo costretti, anche se contrario alla nostra educazione, a prendervi a parolacce ed insulti. Infatti un ascoltatore ha detto: si sono dimenticati gli sputi. Ma questo fa il paio con i 130.000 emendamenti arrivati ieri al Consiglio Comunale di Roma, dove va approvato il budget, la finanziaria, a 870 milioni di buco la gestione del Comune di Roma. Chiaro che il mio sindaco Marino ha piccola responsabilità, la grossa responsabilità va ai sindaci precedenti, quindi Alemanno, Beltroni e via così. Però la cosa bellissima, risse in aula, lo scandalo dilaga, situazione fuori controllo. Poi alle 20 neanche Mosè è riuscito a farcela in maniera così radicale. Si placa tutto, la seduta è sospesa perché c'è Roma Cagliari e tutti a vedere la partita. Poi ci lamentiamo se i dipendenti di un ufficio scrivono il cartello che ho appena letto. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia per chi vuole scrivere su Facebook. No, non scelgo Basi da Night, poi cambiamo, però questo appello save me ci sembrava importante. Allora, ultimi sviluppi per chi se li fosse persi. Il governo ha messo, come ampiamente atteso, la fiducia, ha annunciato la fiducia sulla legge di stabilità. Il sottosegretario De Camillis ha spiegato che la fiducia riguarderà le parti modificate in commissione bilancio. Poi il viceministro Fassina ha aggiunto che nel maxi emendamento non entrano le misure per regolamentare l'OPA, e questo va bene. Piena serenità del premier Letta per il voto di fiducia di stasera, andrà tutto bene, ha detto. Anche se poi è arrivata la conferma che Forza Italia è uscita dal governo, cioè non appoggerà più il governo Letta. Letta si trovava però a Trieste per l'ottavo vertice intergovernativo Italia-Russia. L'ultimo fu nel 2010 a San Pietroburgo. Vladimir Putin è arrivato con quasi 2 ore di ritardo. Folta la delegazione, 9 ministri per l'Italia, 11 per la Russia, 28 accordi bilaterali firmati, tra cui quello con il Fondo Strategico Italiano. e l'omologo russo per una cooperazione di investimenti fino a 1 miliardo, poi un'intesa tra le poste italiane e quelle russe nell'e-commerce, una tra Unicredit Russia e un istituto russo per portare 500 aziende italiane a investire in Russia nei prossimi 18 mesi. Enrico Letta sugli accordi raggiunti con la Russia in campo di cooperazione economica. Accordi nella giornata di oggi finalizzati sono, credo, il miglior segno e la migliore dimostrazione del successo di questo vertice e di una ottima cooperazione, soprattutto gli accordi sono in campo economico, in campo sociale, credo che siano la migliore dimostrazione di tanto lavoro che abbiamo da svolgere insieme. Sono accordi molto concreti, come avete visto, 1 miliardo di euro che sono stati messi in comune da due soggetti così significativi che aiuteranno le joint ventures tra le nostre imprese a sviluppare ulteriore crescita nei nostri paesi, così come l'accordo in materia doganale, un accordo molto significativo, molto importante, sburocratizza le nostre frontiere e le nostre dogane, e i tanti altri accordi anche in materia naturalmente culturale, in campo di ricerca. Credo che ci sia veramente le condizioni per fare un ottimo lavoro. Cito per ultimo il tema che, nel quale la nostra relazione è da sempre solida, il settore energetico, nel quale abbiamo avuto modo di scambiare parole importanti anche sulla necessità di continuare questo lavoro. E poi gli altri accordi a cui facevamo riferimento, Enel e Rosneft, un memorandum d'intesa per cooperare nel settore dell'upstream di idrocarburi, Eni e Rosneft, reciproche forniture di greggio, tiene tutto assieme la corrispondente del Sole 24 Ore da Mosca, che era oggi chiaramente anche a Trieste, Antonella Scott, buonasera. Buonasera, sì, sono stati una serie di accordi che ormai siamo abituati a non avere più delle grandi cifre come avveniva un tempo, magari poi grandi cifre che poi non avevano un seguito. La cosa che mi ha colpito oggi è, ecco, come ha detto il Presidente Letta, che si tratta di accordi concreti, quelli che avete citato appunto, che coinvolgono il Fondo Strategico Italiano, sono tutti più attenti a dare gli strumenti alle aziende per andare poi a fare, a sostenere il nostro export, che è una delle voci positive per l'Italia nei confronti nei confronti della Russia, però quest'anno ci si aspetta un record, cioè un ritorno alle cifre di precedenti la crisi. Ecco, quindi quando parliamo di BRICS, cioè Brasile, Russia, India e Cina, ecco, la Russia è uno dei fondamentali paesi in cui l'economia sta crescendo di più, poi c'è la Turchia, ci sono le Filippine, c'è l'Indonesia, tanti altri mercati, però la Russia resta a livello di continente europeo quantomeno la parte più interessante come tassi di crescita. Scusami l'inciso, Antonella. Certo, hai ragione, anche se il grosso rischio per la Russia è quello di affidarsi troppo sulle proprie risorse energetiche e quindi poi anche per la Russia questa crescita, come un po' già si inizia a vedere, è destinata a rallentare se non si decidono a sviluppare anche altre fonti di crescita per la loro economia, e questo è uno dei compiti che l'Italia può prendersi. È una delle nuove direzioni in cui sta andando SACE, che è stata un'altra la nostra agenzia per le assicurazioni al credito, all'export, è stata una delle dei protagonisti di questi due giorni di visita del Presidente in Italia, e proprio loro sottolineavano come sta cominciando a diventare sempre più importante concentrarsi non più sui grossi progetti sul fronte dell'energia, ma anche sugli altri che riguardano le cose, beni di consumo, di cui comunque i russi hanno un gran bisogno e che noi, su cui noi possiamo, che possa essere un grosso Quindi, bisogno per noi. Quindi con tutto rispetto per Eni ed Enel, che sono nostri campioni nazionali, tanti altri accordi di carattere minore come volume, ma non meno importanti, perché poi significano penetrazione su quei mercati. Faccio notare che per esempio anche Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, ha firmato un accordo di cooperazione nel campo della trasmissione e distribuzione di energia in Russia. Sì. hanno inaugurato un nuovo stabilimento e quindi anche per loro è proprio un radicarsi sempre di più producendo in Russia. Ecco, mi è mancata l'appello Aeroflot, nessun ripensamento, non se la comprano l'Italia, non vero? Se ne è parlato, ma non è ancora detto, almeno non se ne è parlato nella conferenza stampa ufficiale. Faceva pensare il fatto che fosse qui l'amministratore delegato di Aeroflot, però il forum e quindi ancora gli incontri tra Putin e Letta sono ancora in corso, quindi non è detta l'ultima parola. Ecco, tra l'altro in campo sempre di accordi c'è il corridoio verde doganale che può interessare molto agli imprenditori in ascolto, anche quelli che hanno dimensioni piccole e medie, perché dovrebbe facilitare le procedure doganali, esatto. No? Esatto. Questo è davvero uno di quegli strumenti importanti di cui dicevamo, se veramente prenderà piede, è una fase pilota, però dobbiamo dire che l'Italia è il primo paese europeo che riesce a raggiungere un accordo di questo tipo con i russi e si tratta proprio di creare come un corridoio, come quando un passeggero sceglie di passare dal corridoio verde in aeroporto perché non ha nulla da dichiarare, così un accordo tra l'agenzia delle dogane italiane e quella russa faranno in modo che con una certificazione già presentata alla partenza via interview online, chi parte non deve poi più al punto di arrivo ha già la strada aperta perché i certificati, i documenti necessari sono già stati spediti e lavorati, quindi avrà come un bollino verde e questo sarà davvero cominciando da una fase pilota, però poi certo. Se davvero fosse, insomma, risolverà uno dei grossi problemi che i nostri esportatori sanno bene con la Russia e la dogana. E a questo punto, visto che ne stiamo parlando, ma qui in questo caso c'entra solo la Cina, vorrei sapere a che punto è la semplificazione che il Ministero degli Esteri aveva promesso per i visti dei cinesi in Italia, cioè noi, anche dei russi, poi insomma noi abbiamo un disperato bisogno che vengano investitori, turisti e poi è il paese più difficile in cui entrare l'Italia, manco avessimo chissà quali segreti industriali da tenere, cioè, gli italiani se ne vanno e noi non facciamo arrivare gli stranieri, quelli diciamo con i soldi, quelli che vogliono investire o fare shopping. Tra l'altro hanno proprio segato, scusami Sebastiano, hanno proprio lanciato oggi l'anno del turismo incrociato con Italia e Russia, quindi è vero che è anche molto difficile per gli italiani andare a visitare la Russia, però il grande obiettivo è riuscire ad arrivare e su questo si è impegnato Letta a arrivare con la nostra presidenza del semestre europeo di semplificare il regime dei visti perché è l'altro grosso ostacolo. Grazie Antonella Scotti, grazie in collegamento con noi da Trieste. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vedremo come andrà la fiducia stasera, la nuova compagine governativa, tutti gli emendamenti che passeranno alla legge di stabilità, li racconteremo domani ampio speciale, numerose pagine anche sul Sole 24 Ore, ma non resta che augurarvi buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, yuk o non yuk. Radio 24, la passione si sente.